con Lisa La Pietra per parlare del suo spettacolo Orfeo tra biocapitalismo e proprietà intellettuale il 9 novembre al FLA a Pescara presso il Museo delle Genti d'Abruzzo. Lisa, ben trovata. Ciao Federico, ti ringrazio e buonasera a tutti. Sì, Lo descrivi il tuo lavoro? allora il mio lavoro è una sintesi che si manifesta attraverso un recital, che è una forma che sperimento tra ricerca teorica affine a delle tematiche che sviluppo all'interno del mio dottorato di filosofia estetica, scienza e tecnologia sul tema del sistema, le tematiche attuali della vocalità nella musica contemporanea e nella società, e quelle che sono invece poi alcune dinamiche che si sviluppano nel mestiere, nell'espressione e altri aspetti del mestiere di cantante che, essendo specialista di musica contemporanea, si interfaccia con sia il suono della parola che il senso della parola e poi invece la musica attraverso il testo. E quindi a partire da una serie di esempi musicali di repertorio di John Cage, delle sue idee, quindi a partire dal concetto di silenzio, di suono della parola, poi di sintassi, così come poi passando per fonofonia, il killer di parole di Claudio Ambrosini, e indagando altri autori che si sono posti delle questioni sul suono e senso della parola rispetto alla musica e viceversa, provo a fare un excursus tra interpretazione vocale, l'emozione, il linguaggio, a ridecodificare alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali nel rivedere, rivisitare il ruolo dell'interprete nella società rispetto al linguaggio come mezzo di comunicazione e poi all'espressione artistica e di conseguenza la stessa nella relazione con il compositore in una nuova idea di processo creativo. Le due dinamiche fondamentali o grandi temi più che altro sono il biocapitalismo, la proprietà intellettuale, perché in un'epoca di vetrinizzazione sociale, io vi chiedo scusa, sono al fiatone perché sono per strada e i passi a Parigi sembrano sempre troppo lenti, però ci sono. Vi dicevo biocapitalismo perché in un'epoca di materializzazione, di consumismo anche emozionale, oltre che emotivo, chi si occupa di vocalità ha a che fare, al di là che con le aspettative del marketing che hanno un po' colonizzato le istituzioni e tutti i festival e tutti coloro che permettono oggi ai cantanti di potersi mantenere di questo mestiere, ma soprattutto di esprimersi, in realtà il primo confronto che hanno è con il capitale biologico che la natura gli mette a disposizione. Quindi si rivisita una forma di indipendenza dal punto di vista capitalistico, perché il proprio strumento è proprio il proprio corpo, e la proprietà intellettuale perché ritengo che, mi sento di affermare che oggi come oggi, il pensiero che segue l'espressione sia più importante del repertorio stesso, e quindi pur valorizzando la scrittura musicale, quindi il lavoro dei compositori, quello che si fa assieme agli interpreti, credo che un iter critico a monte di una scelta del repertorio, di alcune ritmizzazioni, festival, eccetera, sia fondamentale come approccio culturale più che artistico, come fine a se stesso o meno. Ecco. Ok. La figura di Orfeo? La figura di Orfeo è inevitabile perché nel momento in cui si cerca di ridecodificare o di ricollocare o di ridefinire il ruolo dell'interprete vocale nella società, e quindi di non verificarlo più, di non vederlo più solo come un filtro della scrittura o colui che riproduce delle opere, delle canzoni, delle arie con una aggiunta emozionale, è inevitabile non fare riferimento al significato dell'utilizzo della voce come senso di comunicazione tra se stessi e il pubblico. Quindi quell'idea di relais, di passaggio intramontabile, imperturbabile, che c'è tra l'interprete e il suo pubblico. La musica contemporanea ha sterilizzato per processi di eccesso di tecnicismi e scientificità quella che è la versatilità, la fruibilità della musica. Invece, pur facendo musica contemporanea, che non è la musica commerciale, è bene, secondo me, ricostruire un contatto forte, un'integrazione espressiva tra pubblico e interpreti. Ecco perché Orfeo, perché nel rapporto con Euridice, tra perdersi e ritrovarsi, è proprio l'essenza del mestiere dell'interprete. La messa in scena cosa prevede? La messa in scena prevede un recital, quindi una sorta di dialogo tra me e Luigi D'Alfonso, perdono, Luigi Di Fonto, chiedo scusa, una persona che amo molto e che ha rappresentato un punto di riferimento per me negli anni e che è un giornalista straordinario, ma soprattutto una persona coltissima, in cui si interroga quella che è l'evoluzione del canto, della vocalità, dell'interpretazione vocale, dalla concezione di recitar cantando all'italiana, quindi di una visione più tradizionale della vocalità, del senso della letteratura, delle parole, delle emozioni attraverso una verbalità in musica a sua volta, per arrivare ad altre concezioni più contemporanee come quella che nominavamo prima di John Cage, di Cifariello Ciardi e di altri compositori come Claudio Ambrosini. E all'interno di questo excursus virgiliato da Luigi Di Fonto, ci sarà un nucleo centrale in cui eseguirò dei brani per dimostrare come la definizione scenica, performativa tra recitazione, parola e canzone, piuttosto che intonazione e così via, non ha alcuna correzione di sorta, cioè quel che conta è il fil rouge che collega le varie espressioni da cui proveniamo e di cui abusiamo di retaggio storico dalle avanguardie del Novecento. In chiusura, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Allora, sicuramente il sito del festival, perché ha una macchina operativa veramente incredibile, che stimo molto e che è bulimica di informazioni che invia in continuazione, quindi Pescara Festival, la sua pagina, la Festival di Letterature e Altre Cose su tutti i social e poi il mio sito www.lisalapietra.com, le mie pagine web a mio nome, la pagina Abitare la Musica, Cantare l'Architettura che dà origine a questo progetto e a quella che è stata la mia prima pubblicazione che indaga le nuove relazioni tra interprete e compositore, voce e spazio, musica e architettura e così via. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo Orfeo tra biocapitalismo e proprietà intellettuale a Pescara, al FLA, al Museo delle Genti d'Abruzzo, il prossimo 9 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Lisa La Pietra. Lisa, un saluto, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie mille, grazie di tutto e vi aspetto, ma vi aspettiamo. Grazie.